anche se non ti ho parlato mai. Quella sera al disco pub mi dicesti cosa vuoi, e con voce flebile sussurrai banana. Mi servisti un po' col ghiaccio, non riuscivo a parlarti, a esprimerti i sentimenti miei, a dirti che il pop mi fa venire la dissenteria. Ed allora più mi dio, ma come faccio a dirtelo? Ti mando un fax! Ho comperato anche il telefonino, l'ho preso in Cina perché costa meno. Lo tengo accanto sul mio comodino per scrivere messaggi per te. Ma non capisco quei caratteri strani, io non capisco neanche l'origami. Devo imparare l'alfabeto cinese, ma come faccio io a dirtelo? Ti mando un fax, ma come faccio io a dirtelo? Ti mando un fax, ma come faccio io a dirtelo? Ho poi pensato di telefonarti, se non ti vedo forse riesco a parlarti. Mi ha procurato il tuo numero il mio amico Gino, ma mi risponde sempre quella voce. Il cliente da lei selezionato sta al momento rimanendo con un altro, riprovi più tardi, grazie. E allora come faccio io a dirtelo? Non lo so, come faccio a dirtelo? Le mando un piccione viaggiatore. Ma perché non viaggi tu? Allora facciamo un'email. Bravo, così poi ti rispondo con un virus. Raccomandata con ricevuta di ritorno. Guarda, è meglio che torni tu da dove sei venuto. E allora mi sa che l'unica via è il fax. Ciao, sì, è un po' di tempo che volevo dirtelo, perché è davvero difficile da esprimere soltanto usando le parole. Per trovarle sono anche andato in Nepal 2 anni a cercarle. L'ho trovato in Nepal e il nome mi fa cagare. Vorrei una birra piccola.